Cuccio! Cuccio! E avanti, chi è? Ciao Antonio, Marco, sempre con discrezione, sono in macchina. KK, ciao Marco, ti sento benissimo. Noi stiamo andando in campagna e quindi devo stare un po' attento, già siamo in zona di traffico un po' denso, dai, non mi faccio vedere con col mic in mano. Se c'è un buon mic già, anche se lo metti di fronte, si sente bene lo stesso, io ti sento benissimo. E vabbè, Anto, siamo in città ancora, dai. E dove sei? Ho passato un attimo fa alla casa di quel cuocuomare di Natalino. Ho passato a Corso Trinità. Io ti sento una bomba qua. Io sto usando la Lancentro adesso, sono in camera da letto. Sono bucato. Eia, diciamo che oggi ho un leggero aiuto, Anto, perché questo apparato non è 3-4 watt, ne ha quasi 15, quindi guadagni un Santiago. Già va bene. E che dove stai andando? La Landriga, dove vedere la campagna? Bancali. Già non ci sono problemi. Lungo tutto il tragitto non dovrei avere problemi, ti sento sempre. Aspetta Anto che sono al distributore, a dopo, dai. Io quando è chiama non c'è problema. Antonio, ci sei ancora? Sì. Ascolta, nel frattempo ho cambiato antenna, sono al distributore, il segnale è uguale, no? Non lo so perché questo non ce l'ha lo smitter, so che sei a fondo scala, sì, perché ti sento troppo chiaro. No, allora ti spiego, l'antenna lunga, quella da 1,60 m, sulla base larga ha dato problemi, non so perché, poi la base che sta partendo, allora l'ho messa su una base da 120, quindi da 12 cm, che è quella della Sirio da 1 m, con l'antenna da 1 m Sirio, quella è la sua base, ci ho evitato questa qui, e stazionarie 1, 1 sta 1 sul 40, 1 sta 1 sull'1, 1 sta 1 sul 19, non ha stazionarie, è eccezionale, eccezionale. Questa antenna mi teneva tranquillamente con 1,2 all'estremità 80 canali, quindi per oggi lascio questa, dai. Ok, è entrato nessuno, no? No, non è entrato nessuno ancora, non è entrato nessuno. Ma io ti sento chiaro, non penso di aver nessun tipo di problema, cioè per copiarti, ti sento proprio, sicuramente sarai 9.30, 9.25, roba così, ma adesso non lo so perché con questo io non lo posso vedere perché è semplice l'apparecchio, però sei un bel forte, sì, io ti sento bene proprio. Ma in che zona sei arrivato? Se no comincia a fare tardi. Comunque il mic è quello originale, è un mic normale a condensatore, non è preamplificato, è quello di serie della radio, dai. È una bomba, si sente benissimo. Io ti sto ascoltando con la colonnina esterna, quella della Midland, ti sento una meraviglia proprio, bene ti sento. Eia, cappa, vabbè, tanto ho detto, non ci sarà nessuno, lo porto lo stesso almeno per vedere l'antenna come si comporta, vedo che bene o male tiene, dai. Poi le prove più precise le farò a piazzare segni di taratura se è necessario, ok. Ma cappa, volevo capire che io fino a... tu bene mi senti? Allora, il segnale non lo posso guardare, no? Però sì, ti sento quando ottimamente, non potrebbe essere altrimenti, d'altronde sono in città, Anto. Sei ancora in città, sì. Eia. Aspetta, ho abbassato il vialetto, adesso piglio la strada lì per Conforama. Kappa, no, perché sono curioso per capire in distanza quanto arrivo, capito? Ma sicuramente arriverò a Campagna Duglia senza nessun tipo di problema. Kappa. è che per vedere in lunga distanza come si comporta, perché in macchina è diverso dalla stazione fissa, è diverso, quindi devo capire come si comporta, capito? E sei arrivato? Ancora, ho superato lo sfacciacarrozze, tavoli, non sia Marcedu. Sì, forte, sei forte qua. Non ho nessun tipo di problema, ti copio alla grande. E quando l'antenna è sul tetto, è quella la ragione. Ehi, poi questa vabbè, la tua, poi questa veicolare è alta 1,60 m. Va abbastanza bene, diciamo. Oh, sempre chiaro sei qua, sempre ti sento chiarissimo, ti sento. Sei una bomba. Aspetta che ci sono un po' di macchine, ancora, devo stare molto attento. Tranquillo. Quando sei arrivato, mi fai sapere. Stavo con lo squalci chiuso, ma dire già di tu. Siccome mi stai arrivando bene. Chi è entrato? Non sono. Ho detto che c'ho anche lo squelch chiuso, immaginiamoci se mi arrivi bene. Ehi, comunque è bella giornata oggi, c'è appena appena di velo. Appena appena di velo, ma è una cosa infinitesimale, dai, dopo tutto è una bella giornata. Sì, va bene, non andassi. È che devo tenere a Gabriele, se no stasera. No, avrei preso la moto, sarei uscito. No, il bello, sto ridendo perché il bello, come vedono l'antenna, c'è chi fermi allo stop o cosa, no? Guardano, come dire, sfreganza. E il testo è questa cosa. Ragazzi. Un bel lunga è. Allora, 1,60 m. Non 70, 60, 160. E non è piccolina, no? No, no, lo stilo d'acciaio, tutto stilo d'acciaio, c'è una bobina alla base, base magnetica, la 12, bobina alla base, poi il resto è stilo d'acciaio, molto flessibile, anche se becchi rami, si piega ad arco, poi torna dritta, come ti la pigiona. In che zona sei arrivato adesso? Allora, io sto scendendo, hai presente quella discesa dove c'è una farmacia? C'è un furgone che va a bancare, se va a sinistra vai in una zona invece diversa. Ecco, sono dove c'è la farmacia, discesone. Capo, se me lo forte e chiaro, non c'è problema. Papà, tu mi senti sempre bene, mi senti? Aspetta che potrei anche dare una fugace. Cosa? Per un attimino, Sì, non ti preoccupare. Guarda, alle circa 9, io sai, posso proprio buttare l'occhio un istante, intorno a 9, sempre lì. E cappa, già si sente adesso che stai viaggiando, non è vicino da qua, c'è un po' di distanza, c'è. Ehi, ma sai cosa aiuta, Antonio? Aiuta molto, molto, molto il fatto che sia 15 volte il temperato. 4x4, 16, sì, praticamente guadagni circa un Santiago, e non è poco. Non è poco, no, è tanto. Ah, occurrendisi, si intende, si sente, si sente. No, no, sto avendo, no, è la ventola, mi la ventola, ti fa sentire. Ah, ecco. No, no, io in macchina sono che non corre, poi sono allergico alle multe, capito, e alle sospensioni di patente. Ecco perché temo così tanto anche usare il microfono alla guida. Sì, ma chi vuoi che ti guardi? Poi se hai un buon microfono che ti rubano i sotto non ti vede nessuno, perché si sente lo stesso. Papa, guarda, io adesso ce l'ho poggiato sulle cosce, guarda se mi copi. Sto parlando con voce un po' alta però, Certo che ti copio anche bene. E conta che è un microfono normale questo, è un microfono normale, non è un preamplificato. Capo, ti sento benissimo, bene. Sei arrivato, sì? Ancora no, guarda, Antonio, io stacco per ora, dai, poi ti chiamo solo là, perché sto parlando in verticale un attimo, dai, a dopo. Via, va bene, richiamami quando sei arrivato, non ti ho perso un attimo. Chi è avanti? Appa, chi è che vuole entrare? Avanti. Chi è che vuole entrare? Chi ha dato due colpi di portante? Appa, mi senti tu a me lì? Sì, una zona un po' bassa per me, però già arrivo lo stesso sicuramente. Mi aggasino. Antonio, semi copio, cambio. Poi ti copio, avanti. Ehi, Antonio, sono arrivato, però qua è pieno di piante, è pieno di alberi. Vediamo il tuo segnale, parla un po'. 1-2-3, 1-2-3. Santiago 8, ripeto, Santiago 8. Non va bene. Ehi, aspetta che ti chiamo. Telefono. Avanti. Mi è venuto questo ruolo situazione. Però l'emozione non posso immaginare già. Questo che fine ha fatto? Si era chiuso a buco. Perché cosa è successo? Così non si può vivere, no? Gesù Cristo mio. Con Gabriele D'Annunzio. Siamo mal di schiena. Ah, oh, dove mi hanno operato ce l'ho il dolore, dove mi hanno operato lì, mi ami. Lì. Giovannino Guareschi, direttore di Don Camillo Cepoli, e Giuseppe Mazzini. A Puzza di Gruffa, insomma. La madre repubblicana, quindi. Se giocca mai. Comunque dovresti fare una cosa. Dovresti stare in un posto un po' più caldo, forse. Beh, cosa ne so? Soprattutto da lui. Cosa ne so? Ragazzi, sono le belle giornate, ragazzi, sono un pochettino a dolori, provo a farsi un po' la rotonda, vedi, magari un po' di quel caldo ti fa bene, il mare è miracoloso un bel di volte. Passiamo a prenderci alle però cosa vuoi dire? Io adesso in questo periodo non c'è tanta gente, una passeggiatina in kiwi e vai a due tue mogliere, una passeggiatina, porti due cose, di bermi in kiwi, mangi e via, ti godi un po' di caldo, magari il caldo te lo fa passare il dolore. E cosa mi gioco, cosa mi gioco? Che sia normale come sei stato operato, un po' gareddo, ma anche febbre c'hai, no? Purtroppo è normale che faccia così un pochino e poi passami. C'è qualcuno da Sassari? C'è qualcuno da Sassari? Io vi faccio una pennichella, là. Ci sentiamo dopo. Ok, andrà bene, Meda. Ciao, Antonio. Non puoi tornare, quindi puoi immaginare che passa. Antonio. Ah, senta, Antonio. No, intendisi, no. Oia, oia, non ci arrivo. Chi c'è avanti? Avanti, avanti, qua è la città del Carraggio che chiama. Beh, Marco. Antone, tu mi senti almeno? Cavolo, io sentivo Antonio, ma lui non mi sentiva, assolutamente. C'è un bel QRM qua, è premesso. QRM proprio, vabbè, c'ho 7, io tu arrivi 8. Fai un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, tu sei Santiago 9, Santiago 9. Ti ascolto benissimo. Chiama Sassari che c'è rimasto, c'era Antonio, l'altro non so chi fosse nemmeno. Prova un po'. Che cappa, ci sono io. Stavo per addormentare un pochino. Ehi, avanti. Ehi, Antonio, mi copi, sono fermo all'ancora di Porto Torres, sopra Marai. E ti copio, come mi senti? Fai passaggio anche tu? 2, 3, prova. Allora, tu sei 8 e mezzo, un po' meno di Antonello, 8 e mezzo, ma capibilissimo. Ok, no, prima stavo chiamando, poi ero in basso, non mi copiavate, poi non c'era bianco, capito? Ci sentiamo che io mi addormento un po' perché sono molto stanco. Ho lavorato stasera. Ok, ce la risentiamo. Ciao ciao. Ciao, tanto ben sentito, bella dormita. C'è anche la Tavino, non l'ho sentito sotto. Avanti la Tavino. Stavo chiedendo a Marco se mi ascoltava. Natalino, fai una prova, vediamo. Guarda, 3 prova, mi ascolti? Allora, 7 e mezzo, massimo 7 e mezzo. Dimmi quanti watt stai usando, io sto usando 15 watt. Ok. Ok cosa? Quanto sto arrivando io? 15 watt. Ma che cosa? Tu 15 o quanti? Marco c'è che stava alle 4 d'ora, ci arriva lui, no? Quanti watt stai uscendo? Parla Marco. no, Natali, ti volevo chiedere tu quanti watt stai usando, due basse o meglio? No, sto usando 15 watt e tu mi arrivi Santiago 7 e mezzo, va. Ah, allora la prova è coerente, anch'io lo stesso, sono 15 watt anch'io e anche tu arrivi 7 e mezzo, perfetto, perfetto. Sono davanti a casa di Sandro, come si chiama là? Dove c'è l'ancora, dai, sopra la parte. Io ho aumentato, lo sai che non mi sentivi con 2 watt, capito? Sai cos'è? Qua c'è un fortissimo rumore elettrico, tipo fischio su tutti i canali, non so se è da dove arrivi. C'è da qualche imbarcazione o fare malattia a te. Comunque vabbè, vi ascolto tutti, dai. È una prova che devo fare. Sto usando l'antenna da 1,60 m. Ehi, già sta andando bene, là. Io ti ascolto bene qua, non c'è problema, Marcolino. Già, sono contento, mi sono fatto un bel giro, Antonio lo sa. Sono andato prima alla Platamona, gelato, la Giardina, adesso sono qui a Corotoro, quindi facciamo un giro di... non lo so, così dobbiamo andare a vedere un posto, là. Ok, andrà bene Neda, dai. Ci sentiamo che io sto facendo cosa col computer qua adesso. Ciao Marcolino e ciao anche Buon Pugno se mi ascolti. Certo che ti ascolti, ci mancherebbe. Sei 9:20 qua. Natali, quindi già ti ascolto, non c'è problema. Avanti, Marco. Sveglia, sì, guarda, oggi era una bellissima giornata, adesso se non siamo oggi, provavamo anche andare in campagna, però poi non è venuto bene, capito, abbiamo preferito stare in giro in diretta, là. Ho trovato anche mamma a sperare ovviamente. Saluta Antonio. Ciao Antonio, sono la Regellona Clara, alias Liu Albagostino. Già me lo ricordo, Liu, già me lo ricordo. Saluto anche a te, mi sentita. Quindi siete a passeggio. Almeno lì si sta bene. Vento ce n'è. C'è un pochino di venticello, un po' fresco, però non è eccessivo. Non è eccessivo, basta un giubbotto o un po' di occhio. Non dico di vestirci la neve, però basta un giubbotto secco e sta benissimo. Oh Marco! Che è? Avanti! Marco, a passeggio sei, no? Ti stai godendo l'aria fresca, è la giornata non corro, se con il vento diversale è freddo pure. Comunque buonasera a tutti, qua da un ragno dalla solita collinetta qua in altura, buonasera a tutti, ok. Salutone, vista che ho sentito la vecchia modulazione di Liu. Tanti saluti Liu da Uranio qua in stazione da Austin K. Salutoni cordialissimi e una prezzona di mano anche lo stesso cordiale a tutti e due. Ok K. Sempre con la buonasera, riprendi Marco e fa girare, a te cambio. Oh ciao, c'è un segnale forte, credevo che fosse più in zona, non credevo così. Da dove lì qua credo che ci veda la zona tua, Se oggi non la qua è visibile, qua vedo tutto l'orizzonte. Saluta Urano, Francesco Urano da Austria. Da Austria, Bastone Francesco Urano, da lì. Già ci conosciamo già, Liu, non ti ricordi di me, l'Uranio, quando modulavi K ai vecchi sintesi, Ok, ben sentita, salutoni cordiali, mi fa piacere di aver sentito la tua vecchissima modulazione K, Ok, va bene, qua chi c'è, non lo so, un pugno? Le prendi un pugnetto? Ciao Radio, ben ascoltato, segnale 9 sempre, qua, Radio 5 arriva, alla mia stati un cina piccolino. Poi soprattutto in basso, vero? Sei molto in basso, non arrivi a Loggio. Allora, arrivo in basso io, caspita. Sono proprio in altura, ma la parte di dietro, il bello è quello. Come già detto, Profondo di far fare a mamma la nuova luce del mattino, che è una voce suadente, però poi la vedi di persona e ti fa da un raio. carissimo Antonello, hai sentito un bacione, cacca ogni voce, un'eretica con la mia cugina di ottava, precisa te. Ma non lo sentivi, ragazzi, per cugina te scende qualcosa proprio. Poi andava a bellina comunque per cucinare, andava bella e c'era poca gente che andava lì, che tornava tutti i giorni. C'era la via del Cibiera. Ehi, cioè tutti per conoscerla, poi la conoscevano e scommetto che non ci tornavano più a Ottawa. No, no, era stata baracchino, non ci voleva. C'era Marisa, è buona, non ti preoccupare, che è la mia cugina, anche Pinuccia. E anche l'altra, capito? Anche se c'aveva una bella voce, era comunque la buona. Adesso sono passati tipo un bel po' di anni, sono passati, però c'era sempre un guaio. Va bene, io da qua mi muovo adesso e vado a zona... Oh, aspetta, non so, cambio proprio la cosa, il navigatore. Ok, quindi qua, va bene, funziona tutto, vediamo, siamo ancora acceso, guardando anche qualcosina di segnale. A proposito, Francesco, qua sono con 15 watt, 15 watt appena, 1,60 m, 1,60 m. Arrivi qua, sei otto e mezzo nove cilindri, quindi uranio. Eccomi, motore acceso, 1, 2, 3. Guarda, ci ho separato l'uranio. Ha migliorato o no? Se vabbè, nove è qualche cosa, sì, non è che ha migliorato un poco. Sì, perché la batteria è carica dopo tutto, quindi anche se spegni il motore non dovrebbe. Allora, purtroppo io sto andando con la Papa Cinesigari. Ho cavo a Cinesigari perché si era danneggiato il cavo che arriva dalla batteria, l'ho dovuto togliere in sicurezza. Già me lo ricordo, me l'avevi letto. Comunque dovresti guardare sulle, come ti ho detto io l'altra volta, lì dal vano motore ci dovrebbe essere dei tappini di plastica, ci sono, con un fil di ferro te la cogli subito, basta infilare un fil di ferro, ci si fa un foro piccolo, si infila il fil di ferro, se arriva sotto al tappetino del o dove sei tu seduto, dove c'è tua madre, non c'è bisogno di fare tutto quel casino, capito? Ci passiamo due fili e è fatta. Naturalmente dobbiamo fare il portafusibile vicino alla batteria della macchina, capito? Eia, naturale, naturale. Riprendi Francesco da oggi, avanti. Ok, perfetto. Vedi un po'. Come sto facendo adesso, Marco lì a Porto Torres, ho aggiunto qualche spinterellina qua. Ok, vedrai com'è la modulazione, che segnale, come era prima e come adesso. A te cambio, Marco. Allora, segnale 9, 9, essendo anche più forte il segnale, ha guadagnato anche la modulazione. 9 è abbondante, diciamo, però non è un 9,5 ancora. Tra il 9 e il 9,5 potremmo dire, dai. Io adesso qua mi muovo e vado all'interno del portatore, quindi non mi sentirete più. Io vi saluto e se ci siete a dopo, ok? Buona proseguimento di serata, ciao. Poi me ne ero svegliato, sono rientrato, sono salutone anche a te Uranio. Ciao a tutti, a dopo. Ciao Marco, ci sentiamo a dopo. E cappa, ti stavo dicendo, Uranio mi sente da Usilo? A voglia, forte, chiaro, qua sto arrivando qua il Santiago Lope e una radio di 5 perfetta, ok. Cappa, da questa parte è Antonio Bombolo, da Latte Dolce, da Lima Delta. Ok, sta facendo bene. Stai facendo bene lì da Sierra Sierra, ok. Non so come ti sto arrivando io, a te cambio, dammi un rapporto di compressione K e di scintilla, a te cambio. Sicuramente mi starei arrivando così lo stesso, perché adesso io sono in camera da letto e quindi... come si dice, no, c'ho il baracchino che non c'ha lo smitter, dovrei andare nell'altra stazione per saperlo. Comunque ti sento benissimo, ti sento, qui in zona Lima Delta, Latte Dolce, in periferia di Sassari. Ok, andiamo benissimo, anche se senza smitter non è importante, è stato di sapere come stavo arrivando, stavo uscendo Sassari, come stavo uscendo, ma pare che sto uscendo bene. Ho aggiunto qualche spinta qua, poca roba. Ok, dovrebbe dare di più questo affare, invece non dà quello che deve dare, come al solito. Va bene, grazie Natalino, allora io qua rimango in Codix perché devo fare un trabacchetto e mi devo spostare qua dal baracchino, ok? Prendi tu e fai girare K, per me momentaneamente il Codix si ascolta, ma sei cambio. K, non sono Natalino, sono Antonio, sono. Ero drummer e mi ne esci da dove ho telefono e ho sentito voi. Ok, che antenna c'hai, Uranio? Io sto usando una 780, là, sto usando una Jean-Paul 780. Va benissimo. È vero. No, qua già arrivi bene. Non siamo vicini, Quindi ci sia qualche chilometro c'è da qua. Va bene, ti sento bene. Avanti, pompo. Sì, già, no, già sta facendo bene, qua c'è pure. A voglia. Sentite io. Devo abbassare il watt. Adesso li abbassati. Ero già 50. Adesso dovrebbe essere amplificata di più la modulazione, no, sto usando il 70. Il CM40. Un bel amplificato, va benissimo, va. Ahia, sono contento, sono contento. Era un bel po' che non usavo questo microfono, Dai, dai. Ma comunque mi sta dando soddisfazione. Questa antenna che abbiamo installato mi sta dando soddisfazione. Ah, già esce bene già. Adesso io mi... è che sta facendo vento oggi. Se non sarei salito a piazzare la mantova, perché è già pronta a installare. Ieri ho addizzato i radiali, ho cercato le viti nuove da metterli per il coso. Adesso devo solamente salire sopra, attaccare quella e metterci l'altra. Così ho recuperato l'antenna finché dura, poi l'altra la pulisco bene, faccio la giusta nell'altro palo e a me è tranquilla. Quando mi serve prendo e la installo come facevo, due antenne per la 27. Quando facevo riparazioni non utilizzavo due antenne, adesso ne solamente una. Vabbè, c'è anche solo un alimentatore, l'altro c'era Giovanna, poi uno l'avevo regalato. Insomma, quando vado dai cinesi mi piglio un altro alimentatore da 50 ampere, così questo che ci sto usando adesso lo passo al Codex 4000 e quello da 50 lo uso per questo apparecchio qua, così me ne sono a posto. Poi, vabbè, c'ho l'altro limitatore, quello vecchio, che devo cambiargli il potere, ce l'ho, devo solo installare e basta, devo pulire dentro bene e sistemare le viti dei manici, che sennò mi rimane in mano qualche giorno con l'alimentatore quando lo prende, già pesa, perché pesa un bel modello vecchio, quindi è tutto fatto in ferro, c'è il trasformatore grosso dentro, tutto fatto in ferro. Che cappa, chi si invece di fare la mazza su pisante, so. Chi è che ce l'ha da 50 ampere adesso? Chi cinese ce l'ha? Quello, come si chiama? Muraglia ce l'ha, quello che c'è vicino a Città Mercato. E lì c'è lì da 50, c'è lì da 30, da 20, a Uglia. Io l'ultimo che avevo trovato era da 30 ampere, non ce l'avevo a 50. Io l'avevo preso da 40 e poi l'avevo regalato. Ho regalato il baracchino, l'antenna e l'alimentatore cinese. con l'amico. E il capo addirittura, facciamo, abbiamo lavorato anche gli MC-50 per prestarlo e tutto in casa sua. Lui vabbè, non lo sta neanche usando, ce l'ha a casa conservato, ce l'ha. Ma appunto, cosa si rubiglierà a fare se non entrate in baracchino? Comunque, già, anche quella lì ha fatto la parte sua, e ci fosse pure se un quarto, cos'è, un mezz'onda, cos'è? Mezz'onda quella, no? Quella inferiore a questa, che se ci un bel po' di antenna. E mezz'onda, e quando ci ho adesso un po' di tempo mi compro i radiali d'alluminio e li rimetto. 2,75 e faccio il basamento, li modifico il basamento così almeno glieli applico, capito? Per me è come pompa. La mia è fatta dalla casa così. Che così pompa? No, ma anche così com'è originale non c'è da dirgli niente. Proprio va alla grande, va. Se metti palo alto, se ne infischia, va bene lo stesso. E cazzo si pompa. Io avevo messo i radiali della grande che poi regalata a Mario Masse, ne avevo 4, ne avevo i radiali, figurati. E avevo messo 3 radiali di Grand Prix a quella che sei sentito tu, e quando avevo portato i radiali sull'originale ci ho messo quella della Grand Prix, dovevi vedere quanto turbava, quanto la manta qua c'è. Mi sembra c'era solo questione di poco mi riguadagno da una all'altra. Roba di millimetri, figurati. E così è. Questa è originale, questa qui è originale della caccia tre radiale, ma a me va bene, mi sta soddisfando abbastanza, mi sta soddisfando. Grazie a una persona che è stata gentilissima a darmi una mano a installarla, l'ha fatto lui, mi ha fatto un bel lavoro e mi ha fatto. Lo ringrazio tanto, lo ringrazio, perché io non ce l'avrei potuta fare perché ho un po' di paura a salire lì, ti dico la verità, perché se non c'è una scala bella solida non va su Ive. Quindi lo ringrazio tanto che mi ha dato una bella mano, mi ha dato. E ho di là a me di questa palazzina, io sono salito 4 volte per la mantova di via, devo ricordare, quando si riusciva a salire non riuscivo poi a scenderne perché la pancia toccava il tetto, cazzo, non hai capito? E la scala poi l'appoggiava la ringhiera dell'ultimo piano e quindi era un casino, ci voleva uno che mi prendesse per i piedi e per le gambe in modo da seguire. La fa scendere piano piano la prima rampa, non la prima rampa, dopo di toccare la scala, dopodiché una volta che ero lì mi appoggiavo e scendevo tranquillo. Ma mi pare che faccia una scala in legno per il palazzo e uso quella, che è più sicura pure. E lì sto succedendo, toccava la pancia, capito? Come mi salire sopra, mi toccava la pancia alle tegole e quindi non potevo, non c'avevo nessun appoggio, capito? Se tagliavo poco a poco ci scendeva, allora lui veniva su e in pratica mi teneva le gambe in modo e mi dava la mano e io uscivo tranquillo, anche se avevo i ferri, capito? In mano, se non ci scendevo io ferri e io direttamente nella scala direttamente a piano terra in chibi. Adesso non ci sono più le tegole, c'è il combinato, però abbiamo fatto così, io ero giù, lui era su e io con la corda tiravamo la roba su, capito? Se cosa c'è a passare, per esempio il trapano, le cose, lui da su mi buttava la corda e lo tiravamo così, era molto più comodo. Ah beh, quello sì. allora già è vero. Io quel tetto già lo sai, già lo conosco, sono quando c'era una parabola Maricosa di Pesciolino. Mi sono salito 4 volte, tra Parabola e Mantova. Figurati tu. Quando sono salito sopra mi sono messo le mani in testa, tutte le tegole cribate, aiuti, ma grazie al tetto, ma tu ci stai salendo? E mio fratello sale ogni settimana, mi diceva, ma cazzo ogni settimana? Ma tu sei mancata, aiuto, ma sento se vedo una cosa del genere, gente case popolari, detto, non ti fa più salire, ti fa smontare tutto e ti strappa tutto la bacona, aiuto. No, noi abbiamo fatto le cose bene, abbiamo fatto. Non ci sono, ripeto, le tegole non ci stanno più, c'è conventato sopra. E all'epoca vera che da signora sia Aledda che a Bozzi, o no? Già c'era quella, infatti. Lì per me sai cosa aveva fatto? Una scaletta messa agganciata a muro, hai capito, con la protezione dietro, e così una volta che apri quella finestra che è rettangolare, puoi salire tranquillamente con quello che vuoi, dove non ti succede nulla, hai capito? E lavori benissimo, fatto da lente popolare all'interno. Una cosa del genere, oppure una scala a chiocciola, qualcosa se ne vuole per forza inventare, non è che uno può metterci la scala di, mi sembra che era di 6 metri se non mi ricordo male, e poggia alla ringhiera, capito? Se sbagli poco a poco ci scende giù, scala, ringhiera e tutto. Sì, capo, no, abbiamo fatto una cosa pulita, abbiamo unito 2 scale, li adi, lui è salito su, non temo a dirlo, Luca è salito su, gli ho passato gli attrezzi, io da giù, la verità mi ha fatto un bellissimo lavoro, mi ha fatto proprio, lo ringrazio tanto, non temo a dirlo, mi ha fatto un bel lavoro proprio, mi ha fatto. E via, perché siccome sono 5 metri abbiamo dovuto unire 2 scale, l'avevamo liati e via. Già lo so com'è. Mettiamo, lo ricordo ancora, cosa dai. Io mi sono di cose, di palazzi, fatto antenne, eccetera, eccetera. L'unico palazzino è quella di dove abiti tu, che era un casino, poi mi è capitato al centro storico. Veramente al centro storico siamo saliti io e mio fratello. Mio fratello, siccome era magro, gli passavo la roba e lui ha installato una Energy 5 tavoli lì in via Coso, in via La Mano, l'ha capito, da quello che vendeva le vestiti a Di Matteo. E io gli ho dato l'antenna già trovata e tutto col cavo, ho detto fa una cosa, ho detto per fare quel palo lì, detto, e basta, e poi torni indietro, ho detto mio fratello, poi mi butto il cavo giù e così ha fatto. Quando sono arrivato giù ho preso la scala a 6 metri e gli ho bloccato il cavo nella facciata, poi ho fatto il foro, mi ho fatto entrare il negozio, dal negozio, poi lui parlava tranquillamente con l'altro negozio che c'era in via Brigata a Sassari, poi aveva uno in via Roma di negozio, quindi si contattavano, capito, tramite gli FM500S, li avevano tutti e 3 modificati, andavano nelle 34 canali sotto e parlavano tranquillamente. Capo, io ho capito, per non farci sentire dagli altri. Esatto, sì, perché partiva dal 25 al 34, ne avevi 9 sotto. Allora io ho preso e gli avevo fatto, gli ho staccato il cavetto nella piazzina che c'è delle, una volta fatta quella, staccato quel cavetto, collegato dall'altra parte, mi dava 34 canali sopra e 34 normali, capito? Ho capito. che secondo me per legge avrebbero dovuto essere accessibili al 100%, non così, cavolo, che uno si deve troncare un gotto. Ma ho visto un tipo di scala bella ultimamente, che è particolare, si alza, c'ha dei corsi che è molto sicura, ho visto. È quella che due pezzi, non fai altro che insomma, è una scala, basta pigliare solo due pezzi, per dire c'è il pezzo di sotto dove c'è il basamento largo che poggia in terra da una parte all'altra, e poi ci sono i ganci, in pratica non fai altro che sollevare il secondo pezzo, rimane agganciato di sicura con la scala, così ci puoi salire tranquillo, capito? Qua se non sono 5 metri non andava bene, no, la scala quelle normali non ce la fai, no, non ve la fai a fare, devi venirne due, come facciamo noi per salire su, se non ce la fai. Lo so, già lo so come è fatto lì, è una cosa allucinante. Ma ho detto io, se lo invece è facile, faccio altro che mettermi la scaletta piccola, salgo sopra le tegole, mi porto la scaletta nel pezzo di su, e io arrivo, una volta che mi salgo nella scaletta arrivo giusto dove c'è il basamento del palo, quindi non faccio altro che prendere l'antenna e tirarci la legna. È fatta. Non ho messo l'antenna da 6 metri, no? Una volta l'ho fatto, sono stato spogliolato più che altro, capito? Perché fischiava il palo con la mantova, ogni volta cazzo lo faceva vedere, e il coso faceva l'amplificatore, faceva dire, e capito? Allora mi si lamentava, l'ho preso, ho messo il palo da 3 metri, metto la scaletta da un metro e mezzo, quasi due, e arrivo tranquillamente sopra, io sono andato 1,40, quindi a voglia, così non ho nessun problema, non c'ho nessun fastidio. Poi sono in mezzo al triangolo delle Bermude, qua c'ho il parafulmine del Conti, il parafulmine della telefonia cellulare che è di fronte, e poi ti avvicino a 15.000. Io sono proprio in mezzo. Se sbaglia poco qualche giorno che fate un temporale brutto, mi piglia in pieno, io mi trovo manco a casa, tranquillo. Esagerato, se ci sono i parafulmini dovrebbe parare. Sì, guarda che il fulmine scende dove scende, non ti crede che e ti salvi, no? Anche se ci sono i parafumi, dove trova, se dovessi metterci la massa a terra nella mantova, mi fa la parafumi la mantova stessa, no? Hai capito? Quindi, oppure amico, come è successo una volta quando è stata durante la giù lì in quel grattacielo che c'è a Santa Maria di Pisa, piazziamo la mantova con Gianni Bravo 2 e installiamo l'antenna. Ma è durato 6 mesi, un anno, una cosa del genere, cazzo, come sotto il pieno d'acqua lì là, capito? Poi con la palazzina ha preso il fulmine in pieno, gli ha crepato l'antenna di 3 pezzi, l'ha crepato, in più si è pigliato fuoco l'alimentatore, apparecchio, tutto si è passato, cavo. Dalla borsa non ha più posto. Infatti dalla volta sì, non ha più messo, era il figlio di Simba, era, quindi figurati. Ma pure lui era imbecille, perché quando, per esempio, se io vado fuori, stacco tutto, stacco, no, o se non ci sono e cosa, ne stacco il PL, no, non mi fido a lasciare il PL attaccato, anche nonostante tutto che si sia sicuro e cosa. No, io prendere quando c'è temporale, piglio l'ostacolo, lo butto a terra, poi se deve scaricare, scarica nel pavimento e basta. Sì, pure io lo tolgo proprio, lo scalo, lo butto, anche io lo tolgo proprio, no. Sanno se succede che cosa, non succede nulla, non ti si brucia né apparecchi né niente. Appunto per quello, purtroppo i fulmini sono fulmini, mi no? Anche in macchina è così, se sei in viaggio in macchina, sta piovendo forte, eccetera, eccetera, c'è un temporale, per sbaglio ti prende in pieno la macchina, fai il tempo a uscire dentro la macchina e pigli fuoco, mi non hai capito? Non so se li hai visti filmati su YouTube, basta che te li guardi, oppure i filmati quando scarica e prende una palazzina in pieno, lo sai come ti fai il cornicione, cosa del genere, te lo crepa, è una cosa allucinante il fulmine. Ti apre in due quello che c'è, tu immaginati se dovessi trovare un carro armato, in che condizioni te lo fa? Scrivere, se non ci sono a casa o se devo cosa, se vedo fulmine e cosa, mi ci accoduto, il piede lo stacco proprio, lo butto a terra, al limite, male andando, ma non penso che succeda niente. Quando mi viene dicendo io, allora... Abbiamo 27 anni, sembra che c'è la piazzata, siccome c'è le parafulmine che ce l'avevo neanche 50 metri, a parte i pili che erano a 20 metri di distanza dall'antenna, ha scaricato, ha preso un pilo in pieno, l'ha aperto in due, tu figurati che la scarica elettrostatica che ha lasciato intorno, stavo parlando alla baracchina, cazzo, mi è arrivata la scarica a me, nel microfono, figurati. Perché in quella parte la stava non esisteva lì dove abitavo prima. Pensa tu, il cavolo comunque a Santa Maria di Pisa a grattacielo lì e esce un bel fossile. Lo so che ci va forte, già l'ho visto quel grattacielo, insomma, si vede tutto, si vede. E se no al grattacielo che c'è in Piazza Castello basta andare. Ma lì mi hanno detto che c'era un CB, vero? Sì, lì c'è stato un CB che modulava tanto tempo fa, ma non aveva antenna esterna, cioè usava l'antenna da balcone, capito? Soprattutto non lo faceva la salire perché c'era Radio Zero e poi un'altra radio, c'erano due radio questo, c'era i dipoli piazzati al centro del tetto, poi hanno cominciato a installare a parte dipoli altri tipi di antenne, poi adesso ci sono dei ripetitori di TV, capito? A parte quelli ci sono anche quelli telefonici, quindi quando sono salito sopra a casa sono andato a fare l'impianto TV lì, non si capiva la fanculo, non vedeva nulla, mi sono portato il televisore sopra per non si vedeva la gente, sono dovuto andare da Fusano a farmi dare un filtro, perché sennò quella signora non vedeva niente, non vuol dire nulla, tutto pieno, tutto a strisce, tutta a Badi Urbana non si vedeva nulla, portavi a Monteola per tanto, portavi a Usino, non c'era nulla da fare. Allora l'unico modo era installare installato un filtro e me l'ha fatto bene. Dopodiché l'abbiamo fatto con l'impianto, sono sceso giù, cazzo, sembrava un blocco, non fa bene, cazzo, perché sentiva l'odore del kerosene, ha fatto il kerosene, poi tu immaginati che ti vedi il palazzo che uscì leggermente, gli guarda, sono svolto io, il tuo palazzo che si muove. Perché era il ripetitore che gli chiudeva il segnale. No, secondo che piano era, comunque già, anche con una boomerang, piazzata dal balcone, già piglia. No, io parlo di quello di Piazza Rosario, Piazza Rosario non è a ripetitori lì. No, lì non ce n'è. Lì Piazza Rosario ci abitava coso. Panda, no non Panda, coso, adesso mi chiamo, c'aveva una radio privata, c'aveva adesso. Non mi viene in mente il nome, che siamo anche sotto il baracchino. Zanza. Zanza, esatto, sì. Lì ci va fortissimo sicuramente. Sì, ma non era nelle palazzi, era nei palazzi più bassi, capito? Proprio in, nella stessa via, però un po' più giù delle poste era, capito? La via delle poste, un po' più giù. Sì, ho capito. Dove? La Gambella. Esatto, via Gambella, sì. Me lo ricordo bene perché avevo dei clienti lì. Mi pare che una volta ve l'avevi arreggata in Kiwi. Tipo altro, lì. Quindi figurati. Adesso sono un bel non è vero, so che erano due fratelli, uno mi sembrava morto, e invece ci è rimasto l'altro, ci è rimasto. Però là io ho venduto tutto, se non mi ricordo male, che mi hanno detto. Sì, da quando è morto lui ha venduto, Antenna 2000 era, quando ha venduto tutto. Esatto, ha venduto tutto, sì. Beh, ha venduto la frequenza, ha venduto l'orario, quindi ci ha fatto un bel po' di soldi. Certo, ci volevano 100.000 euro per comprarti la frequenza. Fatto bene, se non c'è più il fratello, cosa... che è mocio, mi pare che era il fisio quello che lo teneva. Esatto, sì, fisio. Su nominamento come ti si chiama? Sì, i primi anni che sono andato alle radio private erano tutti abusivi miei. Lui usciva con radio, non usciva, il fisio ce l'avevo, io ero in terza, all'Inapi lui, lui era in terza, io ero in seconda, all'Inapi, figurati. Si portava la radio appresso, si portava, allora io conoscevo appresso, prendevo, li mettevo portate, perché eravamo di fronte come porta, capito? Li mettevo portate dove ero bestemmiando. Chi è che vuole entrare? RM Urdi, buonasera a tutti, ciao al sorello. Buonasera Giovinotto. Buonasera a te. Cosa sei a casa a fare? A riposarti? Stanotte sei di notte? No, domani faccio la notte. Cava. Ciao, va bene, intanto ad avere lo stipendio di mese, poi... Sì, Giulia, per quello che ti danno, non tanto, per carità. Un sostegno per tirare avanti, da. Quello sì. Con la moda purtroppo io non sai che pagato per il momento ancora, poi dovrebbe aumentarlo quanto so io. Speriamo che l'aumentino, perché uno non può vivere con 800-900 euro al mese, capito, facendo un po' tirato naturalmente, sto parlando. Non fare come lo faceva Nello Spirino, che pigliava 800 euro al mese e ne arrivava la Luffy, quello, poveraccio. E faceva, non 8 ore, faceva 12 gira. Entrava alle 8 e diceva alle 8 e mezza di sera. A mangiare, non a comprarsi, mangiare di una letto, perché quei cani morti non gli davano manco un pezzo di pane. Lo so. Sono tutti così, infatti. Sono tutti così. Sono una massa di bastardi. Però, boh, chissà cosa, cioè, dovrebbero un po' toglierla, perché tu, uno che ti fa così tante ore, devi pagarlo, punto. Ma può essere anche un difetto di questa zona, perché si fa già a Olbia la cosa a Giamba, perché i prezzi sono molto diversi, i prezzi pagano molto di più. Ah, guarda tu, lascia perdere, io ho lavorato a Olbia pure, con la sede di Olbia ti danno la stessa cifra. E allora è proprio una malattia. Questi turi lì portierato, lavori di portierato, ti danno 5 euro all'ora. Se tu sei GPG, GPG vuol dire che sei guardia armata. Allora, se sei guardia armata, ti danno 1,50 euro in più. Sono 6,50 euro all'ora. guardia armata e prenderai sui 1.300, 1.300, 1.400.